Cemento, dove in cerca del senso sprofondiamo all'inferno del movimento fluido e denso come un'orda di zombie fuori da una PlayStation. Se qui nulla cambia e poi tutto scompare, sai non vale la pena di soffrire e frignare. Cioè aveva ragione davvero tua madre, che se poi mi nascondo mi verranno a cercare. Dai, sono lei più tempo passa, più lontana è l'uscita. La morte e la vita, una sola partita. Se vorranno staccarne perderanno la vita. Rabbia libera nella società, a ruota libera si propagherà. Come lo smog giù nelle città, la rabbia libera ci intossicherà. Rabbia libera nella civiltà, a ruota libera si propagherà. Come una nuvola ci sovrasterà. Rabbia libera, rabbia libera. Da Beirut a Bangkok fino all'inferno, non facciamo altro che dargliela vinta. Dice che ormai è tardi per bussare alle porte. Entrare in scena all'improvviso come Jedi da Sawyer. Qui tutto sembra avere trovato nel nostro futuro un po' ponte spezzato da corde che loro ci hanno tagliato, con forbici che noi gli abbiamo consegnato. Non c'è una certezza che sia garantita da una forte pena che valga la vita. Un passaparola di una miglior vita.